Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Abbiamo girato con due luci, due proiettori proprio, una macchina fotografica Canon e una lente, un 50 mm e basta. Perché tutte le cose fondamentalmente dovevano restare in una macchina, perché non avevamo furgoni, niente. Quando ci portarono nel cinema, ci fecero entrare da dietro per una serie di corridoi di servizio per raggiungere il palco. Mi trovai di fronte ad una sala di 3.000 posti ed era piena. Storie di film indipendenti e di capolavori del cinema in una puntata che si intitola Making of. Lo senti l'odore? Cosa? Lo chiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così! Muovetevi! Muovetevi! Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Non si deve essere dei super esperti di cinema per non riconoscere questa battuta o questa sequenza di battute. È la voce del doppiatore di Robert Duvall, che interpretava Kilgore, il colonnello Kilgore, cioè l'uomo che decide di tirare giù una foresta di palme semplicemente perché vuole fare surf su una spiaggia. Stiamo parlando di Apocalypse Now, quel film meraviglioso che ha con sé una storia incredibile. Il suo making of è di fatto un'altra storia, al punto che è stato girato un film su come è stato fatto quel film. La moglie di Francis Ford Coppola ha girato un documentario che lo racconta. Perché? Perché oggi intitoliamo la puntata Making of, e sì, racconteremo la storia del making of di Apocalypse Now, ma soprattutto racconteremo una storia piuttosto incredibile. Ci è arrivata, come sempre ci arrivano le storie, linee d'ombra chiocciola radio24.it, ci è arrivata da un ascoltatore, come sempre, che è anche autore di questa storia, ma che è anche un autore cinematografico, perché questa storia racconta il making of, cioè la preparazione del suo film, del suo primo film, che è stato un film inaspettatamente, per come la racconta lui e per le dinamiche del commercio del cinema in Italia, inaspettatamente di successo, di grande successo. Si intitola Spaghetti Story, è un film che magari avrete intercettato qualche anno fa, e se non l'avete fatto, beh, semplicemente mettetevi comodi e sentitene la storia. Io intanto vi ricordo che dalla settimana prossima comincia il meglio di Linee d'ombra di questa stagione, comincia lunedì prossimo, va in onda però alle 16 e non alle 15, e dura tutto fine luglio e tutto il mese di agosto. Ma noi a fine agosto, il 31 di agosto, quando riparte il palinsesto di Radio 24, torniamo al nostro posto, quindi sempre alle 15, sempre con le vostre storie che ci potete mandare, storie di confine, storie che hanno a che fare con un passaggio a linee d'ombra chiocciola radio24.it. La storia che stiamo per raccontarvi, il cui protagonista e autore è Ciro De Caro, se qualcuno lo conoscesse come regista e non come ascoltatore di Radio 24 e di Linee d'ombra, beh, comincia adesso. È una storia piuttosto lunga e complessa, e quindi lasciamogliela raccontare. Spaghetti Story è il mio primo film, e la storia che ha portato alla sua realizzazione è ancora più divertente del film. Un film piccolissimo, indipendente, che nel 2012-2013 è diventato un piccolo caso del cinema italiano, perché si è trattato di un film praticamente no budget che è riuscito a rimanere in sala per circa 6 mesi. È stato a decine di festival internazionali ed è riuscito ad attrarre l'attenzione di stampa e televisione. Tutto nasce quando ho deciso di mettermi con le spalle al muro, forse in maniera inconsapevole, per cambiare vita. All'epoca, era il 2011, facevo il regista di pubblicità. Ho sempre desiderato fare il regista, e dopo i primi cortometraggi fatti all'università fui notato da alcune produzioni di spot pubblicitari, e da lì ho incominciato la mia carriera. Guadagnavo abbastanza bene, mi divertivo perché i budget delle pubblicità sono relativamente alti e mi sentivo fortunato perché, a differenza di tanti amici, riuscivo a campare facendo il lavoro che sognavo. Ma con il tempo la cosa è diventata frustrante. Io sognavo di fare cinema e girare spot per dentifrici, acque minerali, programmi TV non era il massimo. Non c'era una poetica, bisognava solo infiocchettare bene uno storyboard e accontentare il cliente. Piano piano la mia insofferenza diventava sempre più evidente. Ho iniziato a farmi terra bruciata attorno, dicevo chiaramente quello che pensavo, che lo facevo solo per soldi e che se avessi potuto avrei fatto altro. Venivo quindi chiamato sempre meno, a volte rifiutavo dei lavori con spocchia e mi sono ritrovato nel giro di un anno senza lavoro e sempre meno soldi. Decisi che mi sarei trasferito a Berlino, avrei fatto un qualsiasi lavoro lì e avrei abbandonato l'Italia e il mondo della pubblicità. Poi però mi dissi, se proprio devo mandare tutto all'aria, prima di farlo, tento il tutto per tutto e faccio quello che avrei sempre voluto fare, cioè un film. Scrissi nel giro di pochi mesi una sceneggiatura di pancia, istintivamente, raccontando tutto quello che non andava, secondo me, nella mia generazione. Il disagio, la precarietà economica e sentimentale, ispirandomi alla mia storia, ma anche alle storie di tanti amici che conoscevo. Ah, Spaghetti Story semplicemente racconta quello che mi accadeva attorno e che accadeva a me personalmente, quindi in maniera non calcolata, non ragionata, io ho raccontato le storie e i disagi delle persone della mia generazione, problemi sì economici, lavorativi, che però poi diventano, si trasformano anche in una precarietà affettiva, perché quando uno poi non ha una certezza, una sicurezza, diventa insicuro e timido anche nel costruire gli affetti, i rapporti di coppia e anche familiari. La sceneggiatura non interessava nessun produttore. Mi dicevano tutti più o meno la stessa cosa. Sì, carino, ma cosa succede in questo film? Le star chi sono? È un film piccolo. Tuttavia io avevo deciso di fare quel film ad ogni costo, così vendetti la macchina, misi assieme gli ultimi risparmi che avevo, chiamai degli amici, attori, direttore della fotografia, costumista, e chiesi loro di darmi una mano a fare questa follia. Mi dissero tutti di sì, senza esitare, e decidemmo di girare il film con nemmeno 15.000 euro in 11 giorni. Questo era il massimo che ci potevamo permettere. Tenete presente che un film povero, di solito, ha un budget di 500.000 euro e si gira in 4-5 settimane. Alla fine siamo riusciti a girare il film, fu un'esperienza che ci lega ancora tutti, ma nessuno nutriva molte speranze sul successo di quel film. Però io promisi a tutti che almeno un giorno al cinema lo avrei fatto uscire, per vederlo sul grande schermo. Ripresi a fare il giro dei produttori e dei distributori con il film finito, ma tutti continuavano a ripetere le stesse cose. Carino, ma cosa succede? Sì, è divertente, ma non ci sono le star. Bravo, beh, è un film piccolo. Un bel giorno arriva la notizia che il film è stato preso in concorso al Moscow International Film Festival. Si tratta del più antico festival del mondo. È molto prestigioso, molto meno blasonato ultimamente rispetto a Cannes, Venezia o Berlino, ma ufficialmente riconosciuto a livello internazionale, alla stregua dei tre festival più famosi. Ed è un punto di riferimento per distributori e molti altri festival. Quindi l'eccitazione era alle stelle. Per non parlare dell'esaltazione quando seppi che il film sarebbe stato proiettato nella sala grande del cinema Ottobre. Questa cosa mi riportava alla mente Eisenstein, fondatore del festival, e suggestioni di un'altra epoca. Ma c'era un problema. La sala era di oltre 3.000 posti e pensai che sarebbe stato bruttissimo presentare il film in una sala dove, anche se ci fossero state 300 persone, che sono comunque tante, la sala sarebbe sembrata vuota. Iniziai a fare una cosa che poi nei mesi successivi mi sarebbe tornata molto utile. Cominciai a contattare su Facebook tutte le associazioni di italiani a Mosca, i gruppi di russi che amano l'Italia, il caffè, la pasta, la pizza, Roma, Venezia. Di lì mi ritrovai a scrivere personalmente a centinaia di russi, e non messaggi copia e incolla, ma messaggi personalizzati per ognuno di loro. Un po' perché credevo che si sarebbe percepito, e un po' per evitare la censura dell'algoritmo di Facebook. Praticamente, nei 2 mesi precedenti, iniziai a vivere incollato allo schermo, a scrivere ai russi. Era una droga. Starry-eyed child left behind. Arrivammo a Mosca con il cast, ci siamo sistemati nell'albergo lussuosissimo dove ci ospitavano e ci siamo preparati per la conferenza stampa. Quando ci portarono al cinema a ottobre, ci fecero entrare da dietro, passando per una serie di corridoi di servizio per raggiungere il palco. Superammo le quinte e mi trovai di fronte ad una sala enorme. 3.000 posti distribuiti tra platea e galleria, una cosa immensa. Ed era piena. Fummo accolti da un applauso e quasi da un piccolo boato. Mi avvicinai al microfono per salutare e presentare il film e per la prima volta in vita mia ho potuto capire cosa significa fisicamente avere le gambe che tremano per l'emozione. La cosa più divertente avvenne alla fine, quando dopo la proiezione, all'uscita, tutti sono venuti a salutarmi personalmente perché io avevo scritto a ognuno di loro e siamo rimasti lì a salutare uno per uno 3.000 russi, per cui noi oramai eravamo amici. Alcuni ci hanno portato dolci fatti in casa, regali, ed andò avanti così per circa 3 ore. Ma la storia di questo film non finisce qui. La notizia del Festival di Mosca si era sparsa, altri festival hanno iniziato a chiamarci: Cracovia, Reykjavik, Parigi, Tel Aviv, Dhaka, San Diego, Hong Kong e anche un piccolo festival italiano, il Rome Independent Film Festival, che fu la prima proiezione italiana del film. Alla fine di quella proiezione, come negli altri festival, ci fu un applauso e ricordo che battendo le mani mi venne incontro un signore e quando era ad un passo da me, infilò la mano nella tasca. Tirò fuori un bigliettino, me lo diede dicendo: «Sono un distributore, chiamami». Si chiamava Giovanni ed era il proprietario di una piccolissima distribuzione. Ci incontrammo, mi disse che voleva far uscire il film. Sapete che l'alta stagione cinematografica in Italia è in inverno. A Natale escono i film più commerciali perché è il periodo in cui la gente va al cinema. Così io proposi a Giovanni: «Facciamolo uscire a Natale». «Tanto siamo spacciati, ci massacreranno, ma almeno facciamoci massacrare come si deve. Usciamo a Natale». Lui mi guardò e siccome è un pazzo mi disse sì, senza pensarci. Per noi era importante invece farlo uscire al cinema in Italia perché era una sorta di ufficialità, mettere una bandierina su qualcosa e dire ce l'abbiamo fatta. Anche un giorno solo siamo andati al cinema dove vanno i film veri e poi uscire al cinema vuol dire che puoi partecipare ai David di Donatello, puoi accedere ai vari premi nazionali, insomma lo vedono i critici italiani. Quindi ne scrivono, insomma, tutte quelle piccole liturgie che appunto poi alla fine ci fanno dire: vabbè, allora abbiamo fatto un film vero, non una cosa amatoriale che ci guardiamo solo tra di noi. Memore dell'esperienza di Mosca, cominciai a fare la stessa cosa. Scrissi a tutti quelli che conoscevo a Roma, ai loro amici e ad amici degli amici, chiesi a tutti di invitare altre persone. Morale della favola: quella sera la sala era piena, tutto esaurito. Eravamo al settimo cielo, ma il film sarebbe piaciuto. Un conto è il pubblico dei festival, i critici, altra cosa sono le persone che vanno al cinema. Eravamo fuori dalla porta, li sentivamo ridere. Quindi eravamo contenti, la gente si stava divertendo, poi alla fine silenzio. Dovevamo entrare per ringraziare il pubblico, ma non c'era l'applauso che c'era sempre stato a tutte le proiezioni dei festival. Dunque, entrammo. C'erano i titoli di coda e vedevo le persone illuminate dal bagliore dello schermo. Vidi alcuni piangere, altri asciugarsi gli occhi, non capivo, poi ci videro e cominciò un applauso bellissimo e lunghissimo. Le persone ci ringraziavano e lì capimmo che istintivamente avevamo raccontato una storia in cui la gente si immedesimava. Dopo quella serata il gestore del cinema ci disse che siccome era andata bene ci avrebbe tenuto per altri 2 giorni e anche io per ringraziarlo volevo riempirgli la sala, così mi piazzai davanti al cinema dal momento dell'apertura e con il telefonino e le cuffie a far vedere il trailer del film alle persone che passavano o addirittura quelle in fila che avrebbero comprato il biglietto per una commedia italiana molto commerciale che era in un'altra sala del cinema e a tutti dicevo: se non vi piace il film vi restituisco i soldi del biglietto. Non sapevo quanta gente ero riuscito a mandare a vedere Spaghetti Story. Poi il gestore del cinema mi chiamò e mi disse di seguirlo. Mi fece entrare nella sala dove proiettavano il cine panettone ed era quasi vuota, non c'era nessuno. Poi mi portò nella sala di Spaghetti Story ed era stracolma. Mi disse che era sold out, sia quello che lo spettacolo successivo. E lì cominciò qualcosa di inaspettato. Avevo finito le persone da contattare, continuavo a vivere davanti al cinema mostrando il trailer del film alle persone, ma per fortuna partì una specie di passaparola e il film cominciò a fare il tutto esaurito, ogni giorno, a quasi tutti gli spettacoli. La sera c'era una fila lunghissima di persone che non conoscevo e che pur di vedere il film compravano biglietti per i giorni successivi. Mi ricordo che vedevo in fila attori famosi, vedevo registi, una sera scorsi in sala Renzo Arbore e pensai subito che i miei genitori ne sarebbero stati orgogliosi. Tutto quel casino cominciò ad attirare l'attenzione della stampa. Venne Giulia Innocenzi a fare un servizio per Santoro, ci invitarono da Formigli, della Cuccarini, articoli sui quotidiani, un paginone intero su Repubblica che diceva «Il caso Spaghetti Story, la piccola opera prima che resiste contro i giganti». Ho fatto un secondo film, che è andato male, per una serie di motivi. Il principale è la presunzione con cui l'ho affrontato. Mi sentivo onnipotente dopo Spaghetti Story. Adesso sto per fare il mio terzo e indovinate un po', lo sto per fare un po' come Spaghetti Story, con un budget un po' più alto, sì, ma con la stessa libertà e incoscienza, circondato di amici, senza troppi calcoli commerciali. Forse, funziono solo così. It doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Even 'cause I'm all alone. Oh baby, I'm not home. And when I'm home with you, I'm still alone. Sono Valerio Marino, ho 29 anni, sono di Roma e faccio l'attore. Ma che è il lavoro quello? Aiutaglielo sta storia, sì, è il lavoro. Ma Valerio, ti devi mettere in libero professionismo. Onestamente c'è un'attività che mi sta per decollare, Valerio. Cristian, te fai il pusher. Valerio, quelli come te stanno con le pezze al culo. Ma te ci hai mai pensato a fare un figlio? Che ti servono soldi? Però quelli sono soldi di mamma. Che vorresti dire, scusa? C'è sta sto cinese, peglino. Si intitola Making of la puntata di oggi e avrete capito, insomma, oggi è piuttosto facile capire il motivo di questo titolo, non solo per la storia che racconteremo tra poco, ma in particolar modo per la storia che vi abbiamo appena raccontato. Tra l'altro abbiamo anche sentito giusto adesso, prima che rientrassi, un pezzo proprio preso dal trailer del film di cui ci ha parlato Ciro, visto che ce ne ha parlato per 5 minuti buoni, non potevamo assolutamente non far sentire almeno il suono del trailer di Spaghetti Story, che ovviamente se volete potete andare a comprarvi su YouTube e vedervelo sicuramente su qualsiasi piattaforma, ma sono soprattutto molto felice, sembro quasi uno di quei giornalisti di cinema che la sa lunga, di avere con noi il regista di Spaghetti Story, e cioè abbiamo con noi Ciro De Caro. Ciao Ciro, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Bene, grazie, molto bene. Senti Ciro, la prima domanda è: ma tu veramente hai scritto a 3.000 russi, cioè a 3.000 persone in Russia? Diciamo 3.000 no, ma 1.500 sì, poi fortunatamente dicevo ognuno di portare amici e parenti, quindi sì. E in che lingua scrivevi? Scrivevo sorprendentemente in inglese, però in italiano, diciamo, perché i russi amano molto l'Italia, studiano l'italiano, e io scrivevo a quelli che trovavo sui gruppi, appunto, dei amanti dell'Italia, amanti della pizza, amanti dell'italiano, di Roma, questi gruppi su Facebook. Amanti della pizza mi piace tantissimo. Per quale motivo un amante della pizza dovrebbe essere anche un amante del cinema? In realtà tu dici perché aveva a che fare con l'Italia. Sì, perché aveva a che fare con l'Italia, e poi ho scoperto, a parte questo, che in Russia hanno una cultura cinematografica e proprio gli piace la letteratura, e quindi vanno a teatro, hanno una tradizione molto forte, quindi poi per loro il cinema italiano, per loro io un grande regista italiano, cioè non sapevano che ero uno sfigato che voleva portarli a vedere il proprio film. Per loro arrivava lì a quel festival il film italiano di quell'anno, e quindi era anche atteso un po'. Certo. Ciro, senti, facciamo un attimo un passo indietro. Che cosa aveva la pubblicità, cioè il girare per la pubblicità che non andava, che proprio non ti faceva stare bene? Ah, non mi faceva stare bene perché praticamente io dovevo solo mettere in scena, tradurre in immagini un'idea di storyboard che loro avevano e bisognava praticamente accontentare il cliente, quindi a volte fare anche una cosa brutta e te lo dicevano, che te ne importa, il cliente la vuole così, e già non era una roba in cui potevo esprimere me stesso. Poi dopo anni di queste cose, cioè insomma, era un po' stufo. Però come dici tu, lo dici chiaramente appunto nella tua storia, ci sono persone che fanno il tuo mestiere che firmerebbero per poter fare quel tipo di lavoro, giusto? Sì, beh, in pubblicità dici? Sì. Beh sì, perché si guadagna bene, perché comunque per me alla fine è stata una palestra importantissima, cioè perché poi si dice quando giri una pubblicità ne giri tre, una per il cliente, una per l'agenzia e una quella che poi veramente si monterà. Quindi in un giorno ne facevo tre e quando mi ritrovo a fare un film o un'altra cosa che magari per diciamo i canoni del cinema è veloce, per me è facile perché sono abituato a girare molto velocemente e accontentare, no? Un po' tutti. Senti Ciro, invece un'altra cosa volevo chiederti che è un po' più tecnica, però è per quale motivo, ce la spieghi come se fossimo davvero dei bambini di 6 anni, per quale motivo un film piccolo, uso un termine usato da te, perché un film piccolo fa fatica ad uscire nei cinema? Cioè immagino sia un percorso complesso, no? Di major, di etichette importanti che piazzano i propri film e hanno, essendo degli imprenditori spesso alle spalle di questi marchi, e hanno bisogno di fare soldi. Ma per quale motivo un film come il tuo ha avuto bisogno di così tanta spinta personale, intima? Stavi fuori dal cinema a far vedere il trailer al telefono, era straordinaria quell'immagine. Sai spiegarmelo in poche parole? Sì, per due serie di ragioni. La prima è perché ci sono appunto le major italiane che investono molto e quindi si accaparrano proprio le sale. E magari un esercente campa perché gli arriva Spider-Man e fa l'incasso di mezza stagione e qualche distribuzione può dire: se non metti gli altri 10 nostri film poi non ti diamo Spider-Man. E quindi io, che non ho potere contrattuale con un film piccolo, non posso accedere facilmente a un certo tipo di circuito. E poi perché comunque si tende sempre, a volte ha ragione, a volte per un eccesso, scusami, un po' di provincialismo. Cioè, questo film non ha il nome, non ha gli attori che tutti conoscono e quindi non andrà bene, non lo mettiamo in sala perché nessuno lo va a vedere. Poi io a volte faccio una scommessa con i produttori e distributori, dico: adesso usciamo qui fuori nel bar, domandiamo a tutti chi è questo attore famoso secondo voi, nessuno lo conosce. Sì, sì, assolutamente. Guarda, io ho come riferimento per quando facevo questo mestiere, soprattutto in teatro, avevo questo riferimento con mia mamma, no? Cioè quando nel mondo del teatro i registi dicevano: ma se facciamo questo spettacolo con quest'attore la gente viene. Io chiamavo a casa e dicevo: mamma, tu sai chi è questa persona? No, mai sentita. Quindi effettivamente poi i riferimenti sono sempre un po' ombelicali, no? Cioè hanno sempre a che fare con il mondo grosso, che è grosso 2 centimetri intorno ai grandi mondi, come immagino sia quello del cinema anche. Esatto, sì, e quindi alla fine le ragioni sono molto semplici. Da un lato c'è una protezione dell'investimento che fanno le loro aziende, quindi vogliono uscire in più sale possibili lasciando poco spazio agli altri, e poi questa mentalità, insomma, per cui un film piccolo viene considerato fragile, quando invece poi per me essere piccolo, essere fragile è un complimento. Cioè la storia del cinema è piena di film fragili che però sono belli. A proposito di film, stai lavorando a un terzo film, vero? Sì, a un terzo film, penso proprio in questi giorni. E come sta andando? Dicevi che è più simile a come hai fatto Spaghetti Story rispetto a come hai fatto il secondo. Rispetto al secondo, dove diciamo si dice il secondo film si sbaglia per una serie di motivi, poi il motivo è uno, per presunzione, perché dopo il successo del primo uno si sente un po' onnipotente, mm-hmm, e si commettono degli errori. In questo invece mi sono rimesso nelle stesse condizioni del primo, quindi ritrovare un certo tipo di freschezza, avere pochi soldi, perché poi tanti soldi un po' vincola a un budget alto, cioè non si è tanto liberi con un budget alto perché bisogna accontentare tante persone che, certo, hanno aspettative. Invece ho ritrovato i miei amici, ho ritrovato una storia che ho veramente voglia di raccontare, e quella freschezza, quella voglia di divertirsi fondamentalmente. Prima di salutarti, purtroppo devo chiudere, ci puoi dire il titolo o ci puoi dire almeno la storia? Sì, il titolo ve lo dico, è provvisorio, ma forse resterà questo, è Giulia. Okay. La storia ve la rovino se ve la racconto, perché non la so raccontare in poche righe. Allora va bene così, guarda, ce l'andremo a cercare. Io intanto davvero consiglio tutti quelli che hanno ascoltato la storia di Ciro di andare a vedersi Spaghetti Story, lo trovate in streaming, ed è veramente una storia bellissima. Ciro, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, crepi il lupo. A presto, ciao, grazie ancora. sugar, honeysuckle, and a great big expression of happiness. Boy, you couldn't miss with a dozen roses. Such would astound you, the joy of children laughing around you. These are the makings of you. It is true, the makings of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. È stata non solo una telefonata quella con Ciro, ma anche un pochettino una piccola lezione di distribuzione cinematografica. Nel caso in cui qualcuno avesse voglia di diventare un regista, sa più o meno come funzionano o come non funzionano le cose, ma noi come sempre raccontiamo storie e per questo ringraziamo Ciro. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare la storia, la grande storia di Apocalypse Now, non la trama, ma il making of. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. E dopo la storia di un piccolo film indipendente, quello di Ciro, che ci ha raccontato nei minimi dettagli come Spaghetti Story, ora vi raccontiamo un'altra storia, che è la storia di un capolavoro assoluto del cinema di tutti i tempi e riguarda il film e riguarda le persone che l'hanno fatto. Sto parlando di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e dei suoi attori, dei suoi macchinisti, dei suoi collaboratori. È una storia che abbiamo letto su Esquire, che è firmata da Gabriele Gnola e ci racconta dell'incredibile storia di come sia nato Apocalypse Now. State con noi. Aveva 40 anni Francis Ford Coppola nel 1979, quando il film uscì e vinse la Palma d'Oro a Cannes. Aveva iniziato a girarlo 3 anni prima, impiegando un tempo spropositato, consumando tutto, stando 7 settimane solo sulla scena degli elicotteri e 2 anni al montaggio, che comunque non gli ha impedito poi di rimontarlo altre 2 volte negli ultimi 40 anni. Faceva film da quando aveva 23 anni, Coppola, e a livello hollywoodiano da quando ne aveva 30, ma non ne avrebbe più fatti di quella grandezza. Apocalypse Now lo ha consumato completamente, lo ha distrutto, massacrato e gli ha succhiato via tutta l'energia. Prima di quel film aveva infilato uno dopo l'altro Il Padrino, Il Padrino 1 e Il Padrino 2 e La Conversazione. Dopo, nulla che valga più di tanto la pena ricordare, forse giusto Rusty il Selvaggio. Questo film che continua ad infestargli letteralmente la vita, Apocalypse Now, tornando a galla di continuo, necessitando aggiustamenti infiniti, è l'opera che non finisce mai come solo Blade Runner è riuscito ad essere. L'idea iniziale in fondo era realizzare un adattamento di Cuore di Tenebra di Conrad, ambientato nel Vietnam. Quasi una sfida a John Milius ai tempi della scuola di cinema, un progetto pensato perché lo dirigesse l'amico George Lucas, ancora privo di un lungometraggio d'esordio, ma che infine prese Coppola, che inizialmente lo doveva solo produrre. Si doveva intitolare The Psychedelic Soldier, il soldato psichedelico, e doveva essere una specie di esperimento semi-documentaristico da 2 milioni di dollari, da girarsi poco in Asia e molto in California, in ambienti ricostruiti. Coppola, nelle sue parole, voleva farci i soldi. Voleva fosse come I cannoni di Navarone, un film grande per tutta la famiglia. E invece è diventata un'odissea nella droga e nell'odio, nel cuore nero dell'umanità, in cui non è possibile capire chi siano i buoni e se ne esistano. La lavorazione stessa ha cambiato il film. Doveva essere il suo trionfo ed è stato, sempre nelle parole di Coppola, il Vietnam. Non un film sul Vietnam, ma, dice lui, il Vietnam. Il segreto di Pulcinella di questo disastro lo disse lo stesso regista in conferenza stampa a Cannes, quando fu presentato dopo 3 anni in cui tutti sapevano che lui era lì, bloccato nelle Filippine, a girare qualcosa di grande e disastroso. Eravamo troppo giovani, con troppi soldi, troppa libertà e troppa droga. La ricetta perfetta per il disastro è costata un infarto al protagonista, Martin Sheen, a metà lavorazione. Il che significa che poi è dovuto tornare per finire il film mesi e mesi dopo. Ha previsto da metà in poi l'arrivo in quell'inferno di Dennis Hopper, all'epoca spacciatore di Hollywood, e infine si è arricchita di Marlon Brando, star ingombrante che doveva diventare secchissimo per il suo personaggio e invece si presentò sovrappeso, che ogni giorno inventava battute di dialogo a caso perché non c'era un finale e che era lì, bloccato in attesa che Coppola ne partorisse uno. Come se non bastasse, infatti, la lavorazione era partita senza idee su come chiudere il tutto, contando di trovarlo lì, in loco, cosa che non avvenne e che contribuì ad allungare i tempi di riprese da 4 mesi a 1 anno e mezzo circa. Alla fine chi ha visto il film sa che finisce incrociando la chiusa della trama e un rituale locale, cioè lo squartamento di un bue, folgorazione che venne ad un Coppola ormai disperato vedendo il suddetto rituale una sera, per caso. È un'allegoria dei protagonisti, ma soprattutto del regista, l'uomo che si credeva onnipotente e che è stato punito dalle intemperie e poi premiato per la sua audacia. Nel documentario Viaggio all'inferno di Eleanor Coppola, moglie di Francis, che racconta la lavorazione tramite i filmini che girò in loco, si capisce che anche la sua vita familiare era in pezzi. Aveva portato lì moglie e figli e nulla funzionava. Ci sono immagini di vera disperazione che raccontano esattamente quel che il cinema fa allo spettatore. Mettendo in scena qualcosa di totalmente finto, ambientato chissà dove e chissà quando, riesce a mostrargli i dolori, gioie e sensazioni che lì, in quel momento, fanno parte anche della sua vita. Coppola girava il Vietnam e contemporaneamente viveva il Vietnam. E alla fine avrebbe vissuto il resto della vita come un reduce del Vietnam, sempre a rimettere mano a quel film, sempre a tornare indietro a quell'evento traumatico che, nonostante il successo, tarpò ogni sua speranza di seppellire Hollywood. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Questo pezzo l'abbiamo letto su Esquire, come vi dicevo l'ha firmato Gabriele Gnola, si intitola Storia Eterna di Apocalypse Now, il capolavoro che davvero non finisce mai. È quello che Gabriele Gnola cita nell'ultima parte del racconto, cioè Viaggio all'Inferno di Eleanor Coppola, è proprio il documentario che è stato girato dalla moglie di Francis durante quella enorme, lunghissima permanenza in Vietnam, nelle Filippine, a girare il film, a girare Apocalypse Now. Si intitola nell'originale Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse, cioè Cuore di Tenebra, l'apocalisse di un filmmaker, cioè di un regista di cinema. Ovviamente il riferimento è Heart of Darkness, è Cuore di Tenebra, visto che noi in qualche modo facciamo un riferimento anche noi a un titolo di Conrad. Siamo felicissimi qui a Linea d'Ombra di ricordare Heart of Darkness, uno dei più bei romanzi probabilmente scritti riguardo quel tema che tratta Apocalypse Now, cioè il viaggio nel cuore scuro e tenebroso dell'essere umano. Ecco, se avete voglia di vedervi quel film, andatevelo a vedere, oltre ad Apocalypse Now, Cuore di Tenebra, Heart of Darkness, il documentario della moglie di Francis Ford Coppola, in una puntata che si intitola Making Off. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con un'altra storia seriale, un altro appuntamento con Antonina. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Linee d'ombra. Nell'episodio di ieri della nostra storia seriale è successa una cosa che è davvero un cambio di prospettiva, un cambio di rotta, anche di marcia, perché Antonina Zotti, che è la protagonista di questa nostra storia seriale, era una bambina, 4 anni, perde il papà ucciso dalla mafia dei latifondi proprio perché lui si era messo contro i latifondisti che volevano mantenere il potere sulla terra, cercava di aiutare i contadini e gli agricoltori, era un sindacalista, era anche un falegname, ma era stato colpito da 5 colpi di pistola ed era morto quando lei aveva 4 anni. Ebbene, lei questo segreto, questa storia se la tiene dentro perché è un'onta, è una vergogna in qualche modo. E il giorno in cui lei va alla manifestazione in onore di Giovanni Falcone, nel giugno del 1992, torna a casa, vede un servizio da TV dove vengono fatti tutti i nomi delle vittime della mafia, suo padre non c'è. E ha un attimo di senso di colpa estremo perché dice: io devo fare qualcosa per la memoria di mio padre, e chiama un giornalista del TG regionale di Palermo. E questo giornalista, il giorno dopo, puntualissimo, arriva, e qui continua la storia. L'indomani, puntualissimo, il giornalista si presenta con l'operatore. Parliamo tanto, mi fa evocare quella notte, il cappottino rosso e gli spari, la morte. Mi chiede che cosa pensi dell'imponente manifestazione del giorno prima, quali siano le mie aspettative, le mie speranze. Vengo informata che l'intervista verrà inserita nel TG regionale delle 19:30 di quello stesso giorno. È venuta, ed è stata la prima volta che la foto di mio padre campeggiasse dei secondi che mi sembrarono un'eternità e che hanno l'onda sia alle 2:30 dell'oggettino sia anche alle 7:30 di sera, e che non fece che dare ancora più popolarità a questo nome che già cominciava, perché io avevo già ottenuto che il nome di papà venisse scritto su quello ciscione nero a Piazza Castelnuovo, poi questa cosa del telefono, poi insomma altre cose sono venute fuori, e comunque questo sì, si inseriva in questo già iniziale percorso mio e anche della gente di revalutazione della memoria. È la prima volta che il più grande mezzo di comunicazione su una rete di Stato fa sapere che Nicolò Azzotti operò per il riscatto delle classi sottomesse, che si schierò con i contadini contro la mafia del latifondo e che per questo fu ucciso. Riconoscente ringrazio in cuor mio Diego Buonsangue. Un altro argine che si rompe, un'altra stretta che si allarga, un altro peso che cade per fare spazio a un senso di ariosa conquista. Ricevo molte telefonate, sono amici, colleghi, conoscenti. A tanti che non sapevano ho dovuto accennare alla mia storia. Infatti sono in molti a ignorare il mio passato e non è facile, con poche frasi e per telefono, spiegare i motivi del mio lungo silenzio e della mia gelosa chiusura. È difficile per loro capire come per tanti anni mai io abbia lasciato trapelare la mia esperienza. Per questo alcuni chiedono di incontrarmi, desiderano sapere tutto dalla mia viva voce. Alla fine della giornata mi sento frastornata. Ancora una volta ho rivissuto, ho pianto, ma anche gioito della solidarietà degli amici più cari e del fatto che un numero maggiore di persone sa chi era Nicolò Azzotti e perché è stato ucciso. Sento che, anche se faticosamente, sto squarciando l'oblio attorno alla figura di mio padre. Per tanto tempo, da sola, ho dovuto arrampicarmi su per il muro al di là del quale è stata buttata, insieme con il cadavere, anche la memoria di mio padre. Muro senza nome, senza parole né lapidi, senza riconoscimenti ufficiali. E mi convinco sempre più che il mancato riconoscimento pubblico anche di una sola delle vittime della mafia impoverisce tutta la dolorosa storia dell'antimafia e che io devo fare la mia parte. E sta dicendo anche l'assessora alla pubblica istruzione e mi disse: è possibile per favore avere un incontro, magari ve ne trovo per favore all'assessorato pubblica istruzione lì. E lì lei cominciò già a pianificare degli incontri con le scuole, prima fra tutte la sua scuola, che è il Piazzi di Palermo, presso la quale lei era titolare ma distaccata perché a quel punto faceva l'assessore alla pubblica istruzione. E il primo incontro che io feci fu proprio lì nella scuola Piazzi, e da lì poi anche tutte le altre scuole, io ma certo non le conto più, per alcuni anni ho contato, quando sono arrivata a circa 170-180 scuole, dicevo basta, a me è seccato scrivere sempre e annotarle, scrivere le date, scrivere il nome della scuola, infatti poi non l'ho fatto più. Da lì a 22 giorni faranno saltare in aria anche Paolo Borsellino. Quando mi arriva dilaniandomi la notizia della strage di Via D'Amelio, non posso fare a meno di pensare che Borsellino, a differenza di Falcone, lascia moglie e figli. Non li conosco, ma mi sembra di vederli. Pallidi, smunti e tutti vestiti di nero. Come me e mio fratello, ancora bambini. Melody maker, why did you... Take my heart up to the skies, only to break me. The world it keeps spinning, but I'm not with it. I'm all alone. Oh, melody maker, will you send me a line? Donate me some of your time so that I can sing. Land with these broken wings and if you need me, remember not to call. And did you deceive me with your back against the wall? And do you believe me? All I have is love. Why did you Ormai manca davvero poco per sentire al telefono Antonina Azzotti, per chiudere la sua storia che si chiude con questa prima stagione di Linee d'Ombra. Siamo felicissimi di avere questa storia seriale che chiude questa prima esperienza di Linee d'Ombra. La sentiremo venerdì per cercare di capire anche solo come sta oggi Antonina Azzotti. Io ringrazio Mauro Pescio che raccoglie queste e tutte le storie seriali, ringrazio Luca Micheli, ringrazio ovviamente Anita Panizza e anche Paolo Corrado.